La legge delega vuole bypassare il Parlamento ed evitare discussioni e ritardi in materia ambientale, così in qualche modo è stata la giustificazione del governo, cioè semplificare il più possibile il diritto ambientale. Quali sono i rischi che si celano dietro questa proposta del governo? Il Parlamento, che avendo delegato il governo a modificare le norme su acque, parchi, valutazione di impatto ambientale, valutazione strategica, danno ambientale, rifiuti, emissioni in atmosfera e quant'altro, non interverrà più su questo argomento perché appunto è oggetto di delega. La seconda questione è di opportunità. Insomma, noi abbiamo una direzione ambientale che è costata tantissimo in termini di fatica anche istituzionale, battaglie sociali, iniziative civili, mondo scientifico e culturale che si è mobilitato. In alcuni casi abbiamo delle normative che sono durate 70-80 anni di dibattiti parlamentari. Si è arrivati nel 91 ad avere per la prima volta in Italia la legge quadro sui parchi e i primi dibattiti che dovevano portare a questa legge sono iniziati negli anni 20. Per cui è possibile che dibattiti durati decenni vengano modificati non dal Parlamento, no, che aveva approvato le norme conseguenti a questi dibattiti, ma da un gruppo esterno di saggi e il Parlamento sia relegato a una ratifica, a un parere. Insomma, io credo che sia eccessiva questa delega, sia per quanto riguarda i tempi, sia per quanto riguarda il merito. Dietro il concetto di semplificazione, di sburocratizzazione, ci può essere di tutto, cioè le maglie della tutela si aprono o si stringono? Questo è il problema. E siccome si interpreta, e al di là di interpretare, alcune anticipazioni ci sono, come ad esempio nel campo dei rifiuti, noi temiamo che si vadano ad aprire queste maglie e per cui ci sia una sorta di prevalenza di una serie di interessi che non sono certo quelli della tutela ambientale, quindi non sono certo quelli collettivi e generali, che rischiano di prevalere nella redazione delle nuove leggi. Uno dei provvedimenti riguarda proprio la sanatoria in fatto di reati paesaggistici. La sanatoria nel nostro ordinamento giuridico è uno strumento ordinario dal 1985, cioè non è come il condono che è uno strumento straordinario che può sanare tutto indipendentemente dal tipo di autorizzazione che è e che un immobile ha avuto. È ordinario perché i comuni possono sempre sanare un edificio purché questo sia stato realizzato in previsione urbanistica con autorizzazione edilizia ma in difformità del processo autorizzativo. Il governo in realtà ribalta questo principio e quindi estende la possibilità della sanatoria che è ammessa nelle aree non vincolate anche alle aree vincolate. Detto questo, quindi espresso la gravità del principio che viene violato, va detto che questa sanatoria, a nostro parere, per come è strutturata, interviene soltanto sugli abusi paesaggistici, e anche qui vi chiedo scusa della tecnicalità, ma il tema è difficile. Per realizzare una costruzione nel nostro paese in area vincolata occorrono due tipi di autorizzazione, un'autorizzazione edilizia e un'autorizzazione paesaggistica. Servono entrambe, non è basta una. La legge delega interviene solo sull'autorizzazione paesaggistica, lasciando intendere che quella edilizia deve esserci, perché non è mai scritta nella legge delega che viene sanata la mancanza della concessione edilizia, in quel caso sarebbe un condono, per cui si può sanare soltanto quell'abuso realizzato su una concessione edilizia già data, che riguarderà il rifacimento di un tetto, che riguarderà l'apertura di una finestra su una facciata, una grondaia non corrispondente. Sembrano cose di poco conto, credetemi, ma nel bel paese sono cose di grande rilievo. E inoltre riguarderà delle opere su cui non è necessaria la concessione edilizia, i campetti di calcio, di tennis, a mio avviso anche le piscine, le recinzioni, i cancelli, ed ancora cose più gravi forse sotto il profilo ambientale, perché potrà riguardare le piste forestali, le strade non autorizzate, potrà riguardare a mio parere anche i tagli dei boschi non autorizzati, perché i boschi sono beni vincolati con la legge del paesaggio. Potrà riguardare l'estensione di cave, purché questo avvenga all'interno delle aree su cui è comunque rilasciata la concessione. Può riguardare una quantità enorme, polverizzata sul paese di brutture. Il governo ha sbagliato a introdurre questa cosa. Questa cosa è grave perché è in controtendenza con quanto sino oggi affermato. È una cosa polverizzata sul territorio, non è un condono, ma ciononostante ripeto è grave, e speriamo che la Camera voglia cassarla e modificarla.